Storielle. Storiacce di Raffaella Calandra. Lui era Alessio. Per il suo interlocutore aveva scelto il nome in codice Svetonio. Lui è il super boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro. L'altro è Antonino Vaccarino, ex sindaco di Castelvetrano e già informatore per il SISDE. Per 2 anni il superlatitante, capo della mafia di Trapani e la gola profonda del servizio segreto civile, si sono scritti decine di pizzini. Pizzini come quelli che consegnavano i suoi vari postini arrestati nell'ultima grande retata, Golem II, che fa stringere ancora di più il cerchio intorno al superboss in fuga. E la corrispondenza fra Alessio, Matteo Messina Denaro e Svetonio, alias Vaccarino, ex insegnante di lettere, ex sindaco del comune siciliano ed ex informatore del SISDE, è ora la traccia più tangibile di una delle ultime primule rosse della cupola. È un uomo sfortunato e disperato, dice di lui Vaccarino in questa intervista ad Anna Mignorati, in cui parla della loro corrispondenza, delle riflessioni affidate ai pizzini di fede e anche di carcere. Come è arrivato all'aggancio con Matteo Messina Denaro per le vostra corrispondenza? Beh, credo sia dovuto al fatto che, essendo stato purtroppo, come lei sa, in Mingolis per 5 anni a Pianosa e nelle peggiori latrine d'Italia, credo di essermi comportato sempre bene, così come il mio carattere, la mia indole mi impone nei confronti di tutti, nessuno escluso. È un modo questo da parte sua di vedere in me una persona sulla quale poter confidare, ma in fondo sulla quale poter confidare per quanto riguarda veramente la possibilità di esserne una sorta di confessore e non di confidente, perché con me ha intrattenuto davvero rapporti epistolari basati soltanto su discussioni filosofiche e religiose, su quello che io reputo essere un bisogno da parte dell'uomo, del bisogno della fede che lui dice di non avere, che in me io ritengo che proprio per lo stesso fatto che lui dica di non avere manifesti il bisogno di averla. Quando è cominciata la vostra corrispondenza? Ha cominciato diversi anni fa, nel 2003 credo, 2003-2004. E per quanto tempo è continuata? Per oltre un biennio, 2-3 anni credo. Il primo messaggio fu lei a scriverlo o lui? No, no, me l'ha scritto lui, non ho scritto nessun messaggio. Come avvenne? Ma con una forma assolutamente ormai pubblica, che è quella della consegna di missive cosiddetti pizzini. Chi gliela portò? Queste sono questioni consegnate alla magistratura e che ha la competenza per decidere. Nulla di quello che io mi sono ritrovato a fare è stato né nascosto né coperto da chissà quali manovre, nessuna manovra di copertura, anche perché quando si è trattato di dire qual era la natura della nostra corrispondenza è evidenziabile con facilità assoluta dal contenuto delle lettere stesse, approfondimenti sia filosofici che religiosi. E i servizi invece come la contattarono? Sì, stamattina il giornale pubblica che conferma, il SISDE fa il suo lavoro da ieri, l'AISE oggi, il lavoro di intelligence che è giusto che faccia per prevenire danni alla società e per evitare che vengano commessi delitti. Questa corrispondenza l'ha data lei al SISDE? Certo. Quando? Dopo la fine della vostra corrispondenza o anche mentre era in corso? Anche questo lo lasci all'esame della magistratura. È vero che c'erano degli appuntamenti precisi per scambiarvi queste lettere? No, assolutamente. Non sapeva mai quando sarebbero arrivati? No, assolutamente, erano fatti assolutamente episodici e tra l'altro non né programmati né niente di tutto questo. Che uomo... Perché non erano legati a fatti convincenti di nessuna natura, non c'erano fatti reali, non c'erano operazioni in corso, non c'era niente, c'era soltanto, ripeto, un carattere epistolare legato ad approfondimenti filosofico e religiosi. Eppure la sua corrispondenza è finita nei fascicoli di chi sta cercando Matteo Messina Denaro. Non c'è dubbio, perché quello che è stato trovato a Provenzano che è l'archivio che questo faceva quando pare l'archivista, conteneva riferimenti a me nella loro corrispondenza, perché la mia origine era di Corleone e lui, scrivendo a Provenzano, faceva riferimento a me proprio perché quello diceva di non conoscermi, per quanto Corleone, cioè, ma io non ho conosciuto mai né Provenzano né qualunque altro mafioso, quindi il fatto che lui gli scrivesse e quello scriveva che non mi conosceva era nei fatti reali. Lei è di Corleone più o meno degli stessi anni, non li ha conosciuti davvero i boss, non se li ricorda da ragazzino? No, io desidero che lei sottolinei che mio padre ha patito la fame come dipendente del Ministero degli Interni, della Polizia, mio fratello nei Carabinieri, mio socio nella Guardia di Finanza, perciò si immagini come potevo essere mafioso io. E a casa mia è venuto a mangiare diverse volte e ne sono onorato, l'ho sempre guidato, l'allora capitano Alberto Dalla Chiesa, perciò si immagini. Sono sì di Corleone, ma con queste caratteristiche. E lei a Pianosa come c'è finito? Perché un pentito, un finto pentito, come lui stesso ha ammesso e come la magistratura ha comprovato, denunziandolo per le calunnie, processandolo a mio danno, mi ha accusato di essere mafioso. Ha accusato me, non ha accusato stranamente quelli che invece poi si è scoperto esserlo davvero. E non è che per caso è a Pianosa che è venuto a contatto con qualcuno dei servizi? No, assolutamente no. Dopo? Dopo, sì. Fu Matteo Messina Denaro a scegliere i vostri tre pseudonimi, Svetonio e Alessio. Usa così? So che faceva riferimento a questi pseudonimi, ma non so se in altri casi ha fatto riferimento ad altri nominativi. Le ha spiegato perché Svetonio? O perché Alessio? No. Che uomo ha trovato nelle lettere che vi siete scritti? Un disperato. Perché disperato? In fin dei conti è... Perché chi si ritrova in queste condizioni, ritenendo di gestire chissà quale potere, finisce con l'essere nel fango e a non respirare nemmeno, perché è privo di qualunque cosa, perché il bisogno che almeno ha scritto di poter vivere una vita che fosse quanto più vicina alla norma, anche con una creatura che ha messo al mondo e che ha scritto di non avere mai visto, per esempio, e avendone un dolore lancinante in questo senso, non può che dare la misura di quanto sia pervaso da disperazione, perché qual è l'uomo che non desidera avere una vita normale? E non penso che lui abbia assolutamente una vita normale, non ce l'ha per niente, e probabilmente è quello che sostenevo qualche tempo addietro, diventerebbe una vita normale la sua se solo decidesse, e sarebbe la cosa più intelligente che può fare, e questo era il mio obiettivo, che è quello di costituirsi. Potrebbe riprendere un contatto o avere per la prima volta un contatto con la figliola che non ha mai avuto. Potrebbe avere un contatto con sua moglie, quale quello che non ha mai avuto. Potrebbe incominciare a respirare avendo una vita quale quella che ritengo, almeno per quello che mi è dato sapere, non ha mai avuto. Senta, ma secondo lei è un'ipotesi verosimile che un boss come Matteo Messina Denaro decida di costituirsi? Lei parla di verosimiglianza, io le dico sì, che verosimile lo è, perché da quello che ho avuto modo di registrare nelle lettere è una persona di grande intelligenza, e la grande intelligenza avrebbe dovuto comportare, secondo me, già oltre un anno fa, quando io questo ho detto ufficialmente peraltro, avrebbe dovuto comportare senz'altro il ricorso a questo espediente, in quanto espediente, perché sarebbe stato l'unico modo per mettere al riparo dalla scure legittima della legge e delle istituzioni nei confronti anche dei suoi stessi familiari, perché questo essersi chiuso al riccio avendo fiducia soltanto nei familiari, negli affini più intimi, e che significa se non la necessità di coinvolgere in situazioni certamente non belle le persone più care, perché non si fida degli altri, e quindi è una situazione che tempo passa e sempre più si va stringendo come una tenaglia. È vero allora, secondo lei, che il cerchio si sta stringendo? Io sono convinto di sì. ci mancherebbe altro. Perché? Anche perché ci sono funzionari. Che segnali ci sono? Ma è quello che le ho appena finito di dire. Secondo me il fatto di avere fatto sì corso, rovinandoli purtroppo, e me ne dolgo, tutti i familiari, significa che non ha più la possibilità di confidare su elementi estranei come un tempo la mafia maledetta poteva fare, perché dava un credito che ora è finito. Secondo lei ha paura che qualcuno lo tradisca? Ma in questi casi, sai, è inevitabile. I fatti dimostrano che si sono traditi tutti a vicenda. Quindi questo stato di omertà, di particolare attaccamento a chissà quali valori, faceva parte di un romanticume che grazie a Dio è stato sconfitto definitivamente. E il romanticume che permeava la nostra stessa atmosfera, si respirava questo romanticume, non c'è più. Di questa solitudine o di questa paura di essere tradito, c'era traccia nelle vostre corrispondenza? No, quello di essere tradito no, ma di uno sconforto totale sì. È vero che avete fatto riferimento anche ad alcuni uomini politici italiani? Sì, come no. Cosa le ha scritto? Lui ha scritto che non aveva assoluta fiducia in nessuno, perché non si fidava di nessuno dei politici italiani, non è una questione di sinistra né di destra, perché anzi, proprio nei confronti dell'attuale capo del governo, certamente non era tenero, facendo riferimento proprio a tutte le iniziative contro il fenomeno mafioso. Ciancimino sta parlando di rapporti tra politica e mafia. Con Matteo Messina Denaro, secondo lei, c'è questo rapporto? O perlomeno ha mai fatto qualche accenno? Non credo proprio, no. Anche perché veleggia in senso assolutamente contrario. Cioè come attacchi? La mafia si è sempre avvalsa del potere, non della politica. La politica è una cosa troppo nobile perché possa essere strumento del concetto stesso mafioso. E dei suoi rapporti col potere le ha confidato qualcosa? No. Della lotta alla mafia, che le diceva, che le scriveva? Scriveva che cioè, di questa difficoltà di sopravvivenza, cioè in molte occasioni, anche per mia induzione, si è ritrovato ad ammettere delle difficoltà nelle quali ormai si ritrovano, perché non trovano più con la stessa facilità di prima gli adepti. Quando prima parlavo di disperazione e di sconforto, lo legavo anche a questi fatti. Nella seconda parte della rubrica, Svetonio, alias Antonino Vaccarino, ci parla anche dell'ultima lettera ricevuta dal boss. La sua illustre persona è già entrata nel mio testamento, scriveva, e in mia mancanza verrà qualcuno a riscuotere il credito. La firma stavolta non è più Alessio, ma M. Messina Denaro. Storielle. Storiacce. I picciotti lo chiamano Usiccu oppure Diabolic. Nella corrispondenza con l'ex sindaco di Castelvetrano, suo compaesano, lui per sé aveva scelto il nome in codice di Alessio, per il destinatario dei suoi pizzini invece quello di Svetonio, l'autore del De Viris Illustribus. Classe 1962, Matteo Messina Denaro, già custode del tesoro di Totò Riina, secondo alcuni pentiti, è ora il principale ricercato di mafia, accusato di stragi, omicidi, devastazioni. Di lui si ha solo una vecchia foto e poi le sue parole, affidate anche a queste lettere che Svetonio, alias Antonino Vaccarino, ha poi consegnato al SISDE, come abbiamo già sentito nella prima parte dell'intervista di Anna Migliorati. Lettere come questa. Svetonio, 1 febbraio 2005. Carissimo mio, spero tanto di trovarla bene, assieme ai suoi cari. Ho notato con piacere per lei che, nonostante il suo vissuto, è riuscito a mantenere la sua fede. Io non ci sono riuscito. Veda, io ho conosciuto la disperazione pura e sono stato solo. Ho conosciuto l'inferno e sono stato solo. Sono caduto tantissime volte e da solo mi sono rialzato. Ho conosciuto il gusto della polvere e nella solitudine me ne sono nutrito. Oggi aspetto che il mio destino si compia seguendo questo pensiero. Ho vissuto ciò che la vita mi ha dato. E non ho avuto paura, e non ho girato lo sguardo di là, e non ho perdonato ciò che non si può perdonare. C'è una differenza sostanziale tra lei e me. Lei è stato una vittima della giustizia italiana. Invece io sono un nemico della giustizia italiana, che è marcia. Lo dice Tony Negri, ciò. E io la penso come lui. In merito alle sue argomentazioni, io penso che non si arriverà mai a niente. In politica non si fa niente per niente e noi oggi non abbiamo più un potere contrattuale. Chi vuole che si vada a sporcare la bocca per la nostra causa o per tipi come me che vengono considerati ormai carne da macello? Per l'abolizione dell'ergastolo penso che con il tempo ci si arriverà. Ma noi due non saremo più di questa terra, perché saranno processi lunghi che vogliono il suo tempo. Per il discorso strade, più in là la verrà a trovare un imprenditore e le dirà testuale: mi manda suo figlioccio Alessio. Se la cosa andrà a buon fine, poi lei deve decidere quale percentuale l'imprenditore deve lasciare per lei e per me. La prego di scusarmi se a tratti sono stato sfacciato o impudente. Il fatto è che io la voglio tanto bene. Associ a ciò anche il fatto che io sono un uomo molto pragmatico e che sono riuscito a deludere fino anche le mie illusioni, che non è impresa da poco. Firmato, Alessio. Lei descrive un uomo, e parliamo di una corrispondenza finita 2 anni fa, abbastanza messo alle strette. Ne è convinto? Perché sono passati altri 2 anni nel frattempo. Eppure è vero che ora si dice il cerchio si stringe. Ma io ne sono fermamente convinto, ne ero convinto un anno e mezzo fa. Vede, per certi versi la cattura è l'affermazione dello Stato, dello Stato repressivo. Ed è giusto che sia così. Consegnarsi invece allo Stato significherebbe scrivere una pagina nuova che sconvolgerebbe totalmente il concetto stesso di mafia, così come si è via via nucleando nel corso dei secoli, purtroppo. Perché sarebbe un fatto assolutamente nuovo, sarebbe dire che la mafia non esiste più, perché l'unico che viene, l'ultimo, spero che l'ultimo sia davvero l'ultimo. Ma io le dico, sarà davvero l'ultimo? La mafia ha già pronto un sostituto? No, io ritengo che si è fatto un salto di qualità nella nostra società e la realtà... Ma lei è convinto che Matteo, o perlomeno dagli scritti che vi siete scambiati, secondo lei Matteo Messina Denaro è convinto di essere l'ultimo dei boss? Su questo argomento riazzarderei interpretazioni, perché lui non ha scritto mai niente di tutto questo, quindi le mie sarebbero soltanto delle interpretazioni così a braccio. E ritengo tuttavia che lui abbia la piena contezza del ruolo a cui prima facevo riferimento. Questo suo modo di vivere una dimensione di disperazione oggi, e non è la dimensione di quelli che vivevano nelle fogne e venivano trovati grandi bosse immersi nella fogna. La maggior parte abbiamo visto come sono stati trovati. Senta, ma come glielo raccontava il rapporto con sua figlia o con la sua città? Con il bisogno che ha legittimo un padre di poter vivere una vita normale. Ma secondo lei, da quello che le raccontava, l'ha più vista sua figlia? Secondo me no. Le zone di mafia, secondo lei, le frequenta? Ha fatto accenni a questo? No. Questo non è mai stato oggetto di interlocuzioni epistolari. Non avrebbe trovato, sapeva di non trovare in me nessuna sponda in questo senso. Non era il suo obiettivo? No, assolutamente. Non, vede, anche questo... avere dimostrato la necessità di interloquire, seppure a livello epistolare, su argomenti che certamente non si appartengono a chi lo ha preceduto o al comando di questo bastimento maleodorante, non credo si adatti come normalità al ruolo che lui ha esercitato. È una cosa completamente a parte, nuova. Ascolti, la maggior parte dei grandi boss, si è poi visto, avevano una forte religiosità. Provenzano in primis, ma non solo. No, non e Matteo credo. Messina Denaro? No, credo di più alla dichiarazione di scetticismo religioso di Matteo Messina Denaro, che ha la religiosità di quanti usavano il santino per malefici rituali che nulla hanno a che vedere con la religione. La religione è sacralità della vita degli altri, prima ancora che di quella propria. E Matteo Messina Denaro invece che ne pensa? Matteo Messina Denaro ha detto che non ha il dono della fede, e il fatto che questo affermi certamente non con soddisfazione dimostra, come dicevo prima, che invece il bisogno della fede ce l'hai. Come se ce l'ha? La sua corrispondenza con Matteo Messina Denaro è finita a novembre 2007 con una lettera di minacce. Per certi aspetti sì, ma non ci credo tanto. Ha mai chiesto una scorta? No, assolutamente. Sa per che... il semplice fatto che io non ho mai fatto male a nessuno. E quindi è convinto che Matteo Messina Denaro comunque non la colpirà? Io mi auguro che lui sia tanto intelligente e tanto padre affettuoso da non pensarlo nemmeno lontanamente, né nei miei confronti, né nei confronti del sindaco attuale, né nei confronti di nessuno. Anche se sa che la vostra corrispondenza è finita nei fascicoli del SISDE? Ma anche se sa questo... Se per esempio, sapendo questo, si fosse premurato di proteggere i suoi familiari, oggi non sarebbero stati arrestati. E invece è imperterrito per le esigenze, perché dicevo prima disperato, non è un caso che io abbia usato questo aggettivo. Se così non fosse stato, non avrebbe continuato a servirsi di familiari per quelle corrispondenze che hanno messo tutti nei guai. Che ora sono stati arrestati. E gli anni prima della latitanza le ha mai detto qualcosa? Aveva rimpianti? Sì, credo di avere potuto evincere del suo desiderio di condurre una vita normale come quella che prima io dicevo però desiderava. La sua vita pubblica normale oggi sarebbe in carcere? Beh, le dirò, dove vive? Non lo so, questo lo chiedo a lei. Io non lo so, ma so per certo che le condizioni di assoluta mancanza di libertà nelle quali vive non sono certamente da preferire a quelle del carcere. E lei? Io ritengo di no. Mi ribadisce che questa condizione lui la sente come pesante? La latitanza? Sì, come no. Sì, di questo sono perfettamente convinto. Perché gliel'ha detto direttamente lui, o perlomeno gliel'ha lasciato intendere? Dallo sconforto, dal disappunto, dal dolore manifestato per la mancanza assoluta di fatti che sono legati alla sua vita, a quella che avrebbe desiderato e che desidererebbe. Cioè? Quella di toccare la mano di sua figlia, non a caso. Aveva una venerazione del padre, e chi ha una venerazione del padre e vuole poter assolvere alla stessa funzione nei confronti dei figli, nella stessa maniera con il quale lui conserva questa immagine del padre. E questo è quello che lui non ha mai avuto e potrebbe, ha manifestato questo suo bisogno di poter vivere questa vita che al momento non ha mai vissuto. Ha paura della cattura? Non credo, perché l'ha messa nel conto. Un uomo intelligente, secondo lei? Molto intelligente. E diabolico? Diabolico, che sono aggettivazioni giornalistiche. Che aggettivazione userebbe per definirlo? Sfortunato. C'è qualcosa che avrebbe voluto farsi raccontare da Matteo Messina Denaro e non è riuscito a farsi raccontare? No, assolutamente no. Quello non era di mia pertinenza. Quello che io avrei voluto e vorrei ancora perseguire come obiettivo è quanto le dicevo prima, riuscire a consegnare una vita normale ad un uomo per me disperato. In nome e per conto vero del popolo italiano, io sono nelle condizioni di poter dimostrare che quando affermo di essere una persona di assoluta rettitudine, e nelle cose e nei fatti e non nelle elaborazioni teoriche. Quando il SISDE dice è vero, ha lavorato per conto nostro, in qualche modo non è una riabilitazione da parte delle istituzioni nei suoi confronti? Sì, è una riabilitazione, però ci sono delle carte che per esempio mi dipingono come un lurido trafficante di droga. E questa è una cosa che non indugio a definire allucinante. Io in passato ho fatto pure convegni con Paolo Borsellino contro la droga. E lei casualmente si è ritrovato a Pianosa, casualmente si è ritrovato a scrivere a Matteo Messina Denaro, casualmente si è ritrovato a dare queste lettere al SISDE? No, lei parla di una casualità che non fa il paio con la definizione del caso da parte di Pirandello. E il fatto che sia finita a Pianosa è dovuto non al caso, è dovuto ad una esigenza di dare un colpo mortale alla purulenta mafia, che se non fosse stato ucciso Paolo Borsellino, io l'indomani avrei riacquistato la mia legittima e giusta libertà. Eppure, con questa storia alle spalle, un boss come Matteo Messina Denaro decide di confidarsi con lei e di aprire un canale con lei. E le ribadisco, se un boss, come lei lo definisce, Messina Denaro, decide di scrivermi, scripta manent verba volent, giusto? Mm-hmm. Quello che è scritto c'è. E quando io le sto dicendo è esattamente il riflesso di quello che è. Se mi avesse scritto di avere intenzione di commettere chissà quale reato, sapeva di non potermelo scrivere e non me l'ha mai scritto. Se avesse scritto di chi aveva commesso reati, sapeva di non potermelo scrivere. Se mi ha scritto che le sue letture sono di natura filosofica, che i suoi problemi esistenziali fanno riferimento ai principi religiosi dei quali purtroppo lui non si abbatte, è altra cosa, mi pare, o no? Vi ricordo che potete riascoltare questa come tutte le altre puntate di Storiacce sul sito radio24.it. Ciao, a sabato.